in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Cercheremo di evitare di approfondire i titoli che riguardano le elezioni, anzi lo faremo, non cercheremo di farlo, lo faremo perché così sono le regole. Posso dire solo in linea generale che sono quasi i titoli dei principali dei giornali, sono tutti dedicati a queste tensioni preelettorali di cui avrete senz'altro sentito, e approfitto anche per rispondere ai numerosi ascoltatori che ci hanno scritto chiedendosi come mai i GR andati in replica questa notte erano GR vecchi. La ragione è appunto questa, che siamo in silenzio elettorale. Poi tra qualche ora, al posto delle analisi, delle speculazioni, delle previsioni e dei sondaggi, ci saranno i dati che parleranno per tutti. E se avete sentito che anche naturalmente Radio 24 avrà uno speciale proprio a partire dagli exit poll che cominceranno a esserci alle 11 di questa sera. Bene, ma cominciamo quindi dal Corriere della Sera e vi segnalo la fotonotizia che è dedicata al Giro d'Italia. Oggi c'è l'arrivo qui a Milano e il titolo della fotonotizia, che vede insieme la maglia rosa Alberto Contador e l'italiano Fabio Aru, è: Aru emoziona ma il Giro va a Contador. Sono due i commenti principali, uno di Paolo Di Stefano: lo sterrato e la polvere che accendono la corsa. E quindi diciamo è un giornalista che non è un giornalista sportivo, ma si è particolarmente appassionato a questo Giro d'Italia e quindi lo commenta. E poi Gaia Piccardi, che è una bravissima giornalista che si occupa di sport al Corriere della Sera: Fabio doma la salita e il rivale, il futuro è tuo. E poi vi segnalo dalla prima pagina del Corriere della Sera questa notizia che troviamo su tanti altri giornali, perché è sicuramente destinata anche a essere approfondita nei prossimi giorni, ed è questa di questa cosiddetta lista nera di Putin, contro la quale l'Europa ha protestato, perché il Cremlino ha appunto pubblicato, ha compilato questa lista che contiene il nome di 89 occidentali considerati ostili. La maggior parte di loro sono tedeschi, ma ci sono anche francesi, perché appunto Putin, sono in qualche modo sgraditi a Putin. La prima pagina della Repubblica, anche in questo caso vi cito la fotonotizia che è dedicata a Sarkozy, perché l'ex presidente l'ex presidente francese, nonché leader del centrodestra, ha cambiato nome al suo partito. Sapete che un po' a sorpresa, dopo essere stato sconfitto alle ultime presidenziali, adesso in Francia il presidente è Hollande, che è l'esponente del centro-sinistra, ha le sue difficoltà. I test a proposito di elezioni amministrative sono stati molto negativi, però in questo momento non sono previste elezioni anticipate in Francia. Intanto Sarkozy si muove, perché invece appare nei sondaggi in forte ripresa. E allora il titolo del reportage di Bernardo Valli da Parigi: Sarko il repubblicano. E la prossima elezione in Francia sono nel 2017. E Sarkozy, che è stato presidente fino al 2012, poi nel 2012 appunto è stato sconfitto da Hollande, ci riproverà. E per riprovarci per ripartire con un piede diverso, ha cambiato nome, appunto, ha ribattezzato il suo partito. Ha scelto un nome ambizioso, quello vecchio era Logo, lo ricordava sconfitte, in particolare la sua di 3 anni fa e anche non poche inchieste giudiziarie. Quindi il Partito Repubblicano. Dalla prima pagina della Repubblica vi segnalo anche altri due articoli, uno bellissimo che poi se avremo tempo leggeremo, di Francesco Merlo, che riguarda il matrimonio omosessuale, scene da un matrimonio, storia di Alessia e Chiara quando le mamme sono due. Francesco Merlo ha incontrato appunto due donne che si sono sposate, cercando di capire che assetto prende prendono queste nuove famiglie, sia dal punto di vista legale che dal punto di vista, in realtà forse ancora più importante, degli affetti, della vita quotidiana. E poi sempre in prima pagina, l'appello firmato da Mariana Mazzuccato, che è una docente di economia, ed altre 550 donne per quella vicenda, io non so neanche come definirla, perché lascia sicuramente senza parole, del rettore dell'Università di Roma, che era in giuria per eleggere Miss Università Bikini. Cioè già sui concorsi di bellezza si discute molto sull'opportunità di continuare a fare questi concorsi di bellezza, però in generale queste ragazze che partecipano poi si candidano a fare mestieri che hanno appunto a che fare con la bellezza. bellezza, le modelle, le attrici. No, qui si fa il concorso di bellezza dell'università e il rettore era in giuria e quindi l'appello di queste 550 donne perché il rettore torni sulla sua decisione o almeno faccia un mea culpa. Vediamo la prima pagina del Sole 24 Ore, qui è tutta dedicata alla questione greca, sapete che non è ancora risolta, ieri c'è stata una riunione fiume, 7-8 ore, si sperava che si arrivasse finalmente a un accordo tra il governo Tsipras e i creditori, così non è stato e il Sole 24 Ore si concentra anche sui fondi greci, quindi fondi corsa ad Atene, flussi record dagli USA, gli hedge fund sfidano il rischio default, perché di questo si è parlato, oltre che di Grexit, cioè di uscita della Grecia dall'area euro, ma anche di rischio default proprio per la Grecia, come era stato qualche anno fa per l'Argentina. E c'è stato un boom di investimenti in questi fondi, in ETF, sulla borsa greca. Dalla prima pagina vi segnalo anche, come ogni domenica, l'intervento di Bruno Forte, arcivescovo di Chieti Vasco: nessuna persecuzione nel nome di Dio, fondamentalismo e violenze contro i cristiani. Ancora una volta, appunto, si cerca di approfondire questo tema tremendo delle persecuzioni, in particolare delle persecuzioni contro i cristiani in questo momento. Per quanto riguarda la lettera all'investitore, altro appuntamento fisso della domenica sul Sole 24 Ore, in cui Vittorio Carlini, un nostro collega di finanza, si concentra su un titolo quotato per dare dei consigli agli investitori. Questa settimana la scelta cade su Brunello Cucinelli, che è un'azienda del lusso, un'azienda che ha iniziato Umbra, che ha iniziato con la maglieria in cashmere, ma adesso in realtà fa tutto. Il titolo: la spinta arriva dall'export, più ricavi in Europa e Nord America. Pagina 16, l'analisi appunto per spiegare perché investire in questo titolo. La Stampa ha una fotonotizia ancora diversa, dedicata all'appello di ieri del Papa: non lasciamo morire i migranti. Ieri nel canale di Sicilia sono stati recuperati 17 cadaveri su un barcone e sono state soccorse oltre 4.000 persone, e il Papa appunto ha fatto questo appello dicendo è un attentato alla vita quello di ignorare questa tragedia dei migranti. Il Messaggero, una fotonotizia ancora diversa, questa volta dedicata all'incidente che c'è stato a Roma, al pirata della strada, all'assassino stradale, chiamiamolo così, che naturalmente ha riaperto la questione che in Italia non esiste il reato di omicidio stradale, se ne discute da tanto tempo, ma anche aperto la caccia a questi due nomadi, perché è quasi certo che si tratti di due nomadi, e però non sono ancora stati identificati, che sono appunto piombati su questo piccolo gruppo di persone, hanno ucciso una donna filippina. Il titolo della fotonotizia: sui social il wanted dei due nomadi ricercati, è stato trovato il DNA dei rom in fuga, è in corso una vera e propria caccia all'uomo, cercando di capire dove possono essere fuggiti, quindi setacciati i porti e caccia anche ai tir. E poi l'altra notizia che vi segnalo dalla prima pagina del Messaggero, sulla questione delle pensioni, di cui si è parlato tanto nelle scorse settimane: in pensione a 62 anni, ecco i conti, e un giudice riapre il caso rimborsi. C'è una sentenza a Napoli dopo il ricorso, pagare tutti gli arretrati, quindi come purtroppo si era un po' da alcune parti si era previsto, la questione non è chiusa con la sentenza della Cassazione pubblicata in Gazzetta e il provvedimento del governo, perché i ricorsi potrebbero continuare ad arrivare contro appunto il blocco degli arretrati sulle pensioni. L'Avvenire naturalmente apre sull'appello del Papa di cui parlavamo prima: vita senza confini, il Papa, difesa piena dell'esistenza, gli attentati sono l'aborto e lasciare morire gli immigrati. Ma la fotonotizia è ancora diversa ed è dedicata ad Aleppo: Aleppo non è persa, salviamola. C'è un'intervista che dopo vedremo all'inviato dell'ONU De Mistura, che spiega come appunto non bisogna pensare che sia troppo tardi, non bisogna lasciare che il fondamentalismo, in questo caso fondamentalismo dell'ISIS, sconfigga o lasci che città sacre per molti come Aleppo vengano appunto distrutte. Il Manifesto, da qui vi posso segnalare, a parte tutti i titoli dedicati alle elezioni, un approfondimento su quello che sta succedendo a Cuba, perché Cuba, sapete, è stata tolta dalla lista nera, altra lista nera, questa era una lista nera degli Stati Uniti sui paesi terroristici. Cuba non è più uno stato canaglia, quindi un reportage di Roberto Livi. E poi ancora un approfondimento sulla siccità che ha colpito la California e su tutte le misure che stanno prendendo gli abitanti per cercare di risparmiare acqua. Luca Celada ce lo racconta a pagina 8 del Manifesto. La prima pagina del Fatto Quotidiano vi segnala un'inchiesta sul Mose, buco da 30 milioni, ma ne prende 7 di buona uscita l'ex RAS, così viene definito dal Fatto Quotidiano, Mazzacurati. E il giornale, anche qui vi segnalo la fotonotizia che è dedicata un po' sorpresa, così ogni tanto, insomma, però appunto articoli un po' estemporanei, a Lamberto Andreotti, che è uno dei figli di Giulio Andreotti, leader della DC. Viene definito il divo dei manager perché è presidente di Bristol Myers e l'anno scorso ha guadagnato 22 milioni di euro. Ci lasciamo un attimo per il meteo e ci ritroviamo subito dopo. In primo piano. Ancora buongiorno, ancora buona domenica da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali, come dicevamo i titoli sono tutti dedicati alle tensioni preelettorali, le urne sono aperte da poco più di mezz'ora e noi evitiamo, rispettando la regola del silenzio, di parlare di tutti questi articoli e aspettiamo di avere dei dati. Quindi dalle prime pagine vi ho segnalato tutto quello che appunto non riguarda le elezioni. Su Libero faccio fatica a trovare un solo articolo che non è appunto di argomento elettorale, c'è questo però di Attilio Barberi e riguarda la questione che si è aperta questa settimana sullo spreco di cibo, perché sapete che esiste la fame nel mondo, è un problema grossissimo, ma è anche vero che in realtà se uno guardasse molto freddamente alla quantità di cibo prodotta basterebbe per sfamare tutto il pianeta. Il problema sono gli sprechi. Allora, per esempio, in Francia è appena stata varata una legge antisprechi e Attilio Barbieri approfondisce questa questione con un titolo un po' polemico, La grande balla del cibo sprecato che potrebbe sfamare i poveri, spiegando che appunto non è così facile, perché sennò uno si chiederebbe davvero perché non lo si faccia e basta, dirottare il cibo in più che a noi occidentali ricchi e che appunto abbiamo molto più di quello che ci serve, di rottare questo cibo in più o comunque produrre in un modo diverso e più razionale, in modo che esistano meno differenze, meno sprechi. Vi segnalo la prima pagina della Gazzetta dello Sport, che è dedicata al Giro d'Italia naturalmente. Il titolo è bellissimo e la foto naturalmente è quella di Fabio Aru, che è questo ciclista italiano di 24 anni. Aru vola anche al Sestriere, spaventa Re Contador, che però sapete oggi arriverà da trionfatore a Milano. Ma veniamo alle pagine interne dei quotidiani. Allora, dal Corriere della Sera una notizia che trovate anche sugli altri giornali ed è quella che riguarda, lo ricorderete, la misura dell'anticipo del TFR, per cercare di rimpolpare un po' le buste paga, era stato deciso appunto che chi voleva poteva chiedere l'anticipo del TFR ogni mese in busta paga. Questa misura non è piaciuta, anche perché in molti hanno deciso di adottare un po' una logica da formiche e non da cicale, quindi aspettare, lasciare il TFR dov'è, aspettare che il trattamento di fine rapporto arrivi quando appunto il rapporto di lavoro finisce. E quindi il titolo del Corriere: l'anticipo della liquidazione non convince, richiesto solo dallo 0,05% dei dipendenti. Nelle grandi imprese 567 lavoratori su 1 milione hanno esercitato l'opzione. Pensate, 567 su 1 milione, appunto lo 0,05. Dalle pagine del Corriere della Sera anche una reportage interessante di Danilo Taino da Berlino, perché sapete che l'Europa è sicuramente un continente dove la natalità è molto bassa rispetto a tantissimi altri paesi, rispetto anche a altri paesi occidentali come gli Stati Uniti, ma il record in assoluto spetta alla Germania. Le culle più vuote del mondo spaventano la ricca Germania, facciamo meno figli dei giapponesi. È appunto un record negativo che fino a poco tempo fa apparteneva al Giappone, c'è uno schemino che lo spiega molto bene: nascite bambini ogni 1000 abitanti, la Germania 8,2, poi subito dopo viene il Giappone 8,4, Portogallo 9, l'Italia 9,3, quindi anche noi non siamo messi molto bene, poi Francia 12,7, Gran Bretagna 12,7, pensate, in Niger sono 50 bambini ogni 1000 abitanti. Dalle pagine interne della Repubblica un approfondimento sulla Grecia, abbiamo visto anche sul Sole 24 Ore tanti approfondimenti su questa questione, accordo entro l'11 giugno, ennesimo nuova data prospettata per l'accordo, o si tenta il default controllato. Abbiamo parlato appunto anche di questo default e su come addirittura in borsa, abbiamo visto sul Sole 24 Ore, si scommetta su questo default, si scommetta nel senso che si specula su questo default tramite l'acquisto di buoni del tesoro alla borsa di Atene. Vi dicevo anche quell'appello che era in prima pagina sulla Repubblica, poi lo trovate completo a pagina 16, di Mariana Mazzuccato, che è docente, una economista docente all'Università di Sussex, ma ci sono anche tantissimi altri docenti e anche persone, soprattutto docenti universitarie, perché la questione riguarda appunto l'università, un appello per questa scelta, possiamo anche dire scellerata, di Eugenio Gaudio, che è il rettore dell'Università La Sapienza di Roma, che ha appunto partecipato all'elezione di Miss Università in bikini. Egregio rettore, si scusi, un'offesa vederla dare i voti a Miss Università in bikini. Un'altra classifica, sempre la Repubblica, questa volta abbiamo parlato prima dei giapponesi, che sono secondi solo ai tedeschi come scarsa natalità, però sono i primi in salute, salute da record, solo i giapponesi battono gli italiani per longevità, quindi noi veniamo subito dopo, però appunto i giapponesi restano i più longevi e anche i più quelli che stanno meglio. Dal 1990 a oggi sono stati guadagnati 6 anni in Giappone, appunto le femmine arrivano a 85, i maschi a 80, quindi la media è di 84, e migliore anche la sopravvivenza alle malattie. Naturalmente in tutto questo c'entrano probabilmente i progressi della medicina, gli stili di vita migliori e in generale, forse, così come diventiamo tutti più alti, perché questa è un po' la tendenza, diventiamo anche tutti più longevi. Vi segnalo invece dal Sole 24 Ore gli articoli più ampi, la notizia la trovate anche altrove, su un primo bilancio dell'Expo, perché così sembra ieri veramente, ma in realtà è già un mese che Expo è aperto ufficialmente il primo di maggio, e quindi si può fare un primo bilancio. 2 milioni di visite a maggio, ci racconta Sara Monaci, verso la chiusura di accordi con tour operator per altri 3 milioni di biglietti. C'è un po' di polemica sulla quantità di biglietti venduti, su quanti sono in realtà stati venduti alle scuole e su quanto questi 2 milioni siano in linea con le aspettative, perché sapete che più o meno era stata fissata in 24 milioni la soglia di visitatori che porterebbe l'Expo in pareggio. Siccome dura 6 mesi, purtroppo o si accelera oppure sarà difficile raggiungere questa cifra. Però ieri il presidente di Expo, commissario di Expo Sala, si è detto comunque ottimista. E poi c'è un approfondimento sempre di Sara Monaci su quali sono i padiglioni più visti, sono quelli più facili da trovare. Quindi Italia, Brasile, Giappone, Stati Uniti hanno avuto il successo maggiore grazie alla posizione lungo il Decumano, che è questo grande viale che attraversa Expo, e all'originalità della struttura. Poi vi dicevo la lettera all'investitore, la trovate a pagina 16, il titolo appunto Brunello Cucinelli spinge sull'export. Pensate che appunto negli ultimi 5 anni il peso delle esportazioni di questa azienda umbra, che è nata come maglieria in Kashmir ma ora produce qualsiasi cosa e ha moltissimi negozi, il peso dell'export è aumentato dal 63% all'80%. Il 2015, ci spiega Vittorio Carlini, chiude la fase dei grandi impieghi di capitale. Sono stati spesi 130 milioni in CAPEX, cioè capital expenditure, usata soprattutto per ampliare gli impianti industriali e per ampliare la rete di negozi. Ancora elevata l'esposizione all'Italia, la cui congiuntura rimane debole. Ma l'azienda, dice, la domanda interna è in ripresa, perché infatti nell'ultima trimestrale addirittura anche il mercato italiano appunto aveva mostrato qualche segnale di vivacità. E poi vi segnalo dal Sole 24 Ore, dalla pagina 18, un intervento di Carlo Calenda, che è il vice ministro dello sviluppo economico, sulla questione del made in, perché è una questione molto dibattuta. L'Unione Europea è l'unica grande area economica del mondo che non ha questo made in obbligatorio, cioè su molti dei nostri prodotti che noi compriamo non è obbligatorio scrivere dove sono stati fatti, cioè made in, fabbricati. Non si arriva a una soluzione, perché alcuni paesi, soprattutto i paesi del nord, non lo vogliono questo made in, mentre noi, alcuni paesi come l'Italia, lo vogliono, perché è un'informazione in più ai consumatori prima di tutto, e può essere un valore aggiunto sapere che una cosa è fatta in Italia. E Carlo Calenda si sta battendo per l'introduzione di questa misura, che però appunto il Parlamento europeo in realtà ha già approvato, ma come sapete il Parlamento europeo è l'unico Parlamento al mondo che non legifera, o comunque che non produce leggi che poi devono essere assolutamente rispettate. Qui la palla è tutta nella mano della Commissione europea, che per ora non approva questo made in obbligatorio. E quindi Carlo Calenda, appunto, la trasparenza sul luogo di produzione non è solo un'indicazione tecnica, ma anche un modo per tutelare i consumatori. Dalla pagina interna della stampa vi segnalo un bellissimo approfondimento sull'orto botanico di Padova, che ha appena riaperto e dove si può osservare la biodiversità. È uno degli orti botanici più belli d'Italia e ricrea tutti gli ambienti del pianeta. Vale sicuramente una visita a Padova. Abbiamo parlato della questione migranti, sul Messaggero una pagina interna che appunto spiega come ieri siano stati salvati, alcuni dicono 4.000, il Messaggero parla di 5.000 migranti in un giorno, e comunque sono stati trovati anche 17 morti su un barcone, come dicevamo. Dalle pagine interne della Avvenire vi segnalo da Trento, dove è in corso il Festival dell'Economia, un'intervista a Joseph Stiglitz, che è un economista premio Nobel, e la sintesi dell'intervista dell'inviato a Trento Eugenio Fatigante dell'Avvenire, la sintesi del pensiero di Stiglitz è: l'austerità sta uccidendo l'Europa. E il Stiglitz torna sul tema delle disparità incredibili che ci sono a volte tra gli stipendi degli amministratori delegati e dei dipendenti. Oggi l'amministratore delegato di un'azienda guadagna mediamente 300 volte quello che guadagnano i dipendenti. 40 anni fa il rapporto era di 30 a 1. L'aspetto più spiacevole è la disparità che si crea nelle opportunità. Era l'ultima segnalazione prima del traffico, ci risentiamo subito dopo per l'ultima parte della rassegna. Monge, alimenti naturali per cani e gatti, con tanta carne fresca italiana. Vi presenta In Primo Piano. Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli. Eravamo nelle pagine interne dei giornali e eravamo sull'Avvenire, e dall'Avvenire, che come sempre dico, ha veramente a volte il pregio e il merito di parlare di argomenti che agli altri giornali sfuggono, di approfondire soprattutto in tema di esteri, delle realtà che così ci sembrano lontane, quindi forse non vale la pena di parlarne. Per esempio oggi nelle pagine di Economia e Lavoro c'è un approfondimento sull'economia cilena, che ritenta lo scatto. Pensate, appunto, chi ci pensa mai al Cile: 4 anni di boom, frenata nel 2014, ora il PIL cresce del 2,4%, che confrontato appunto ai nostri 0, dell'Europa, o addirittura anche quello dell'America, che sapete nel primo trimestre è addirittura arretrato. Sono appunto notizie che sorprendono. Settori chiave come la manifattura e soprattutto l'industria mineraria del rame, ci racconta Lucia Capuzzi, di cui il Cile è il primo esportatore mondiale, e quindi insomma una rinascita di questo continente. Poi un'altra notizia sempre di politica economica estera: uno studio che ci racconta Marta Ottaviani di Frost & Sullivan, che ci spiega come la Turchia, dopo la Cina diciamo, abbia compreso il potenziale dell'Africa. E quindi il titolo: per l'Africa un ingresso privilegiato di nome Turchia, Ankara, cioè la capitale della Turchia, ha compreso le potenzialità offerte del continente e oggi pensate ha il più alto numero di collegamenti aerei con appunto l'Africa. Dalle pagine interne del Fatto vi segnalo, come ogni domenica, c'è un'intervista di Malcolm Pagani su due pagine, quindi approfondita, è bella, dove quelle interviste dove si ha appunto l'impressione che si riesce veramente a capire che cosa una persona pensa su tante cose. Poi naturalmente molto del merito è delle domande, ma spesso è appunto la possibilità di avere tanto spazio per le risposte che rende queste interviste interessanti. Oggi il personaggio è Ferzan Özpetek, il regista, parlavamo di Turchia, appunto turco, ma che è in Italia da tantissimi anni, è proprio ormai direi quasi più, probabilmente lui stesso si considera più italiano che turco. Il titolo è: meglio brutali ma sinceri, il cinema nega l'amore tra froci. Froci usa proprio questa parola e all'interno spiega perché la preferisce a gay, perché la trova più sincera. Ferzan Özpetek è un omosessuale dichiarato, in quasi tutti i suoi film c'è la tematica omosessuale, e quindi diventa anche di attualità, visto quello che dicevamo, il referendum della settimana scorsa sul matrimonio omosessuale approvato in Irlanda e tutte le discussioni che ne sono seguite. Vi leggo una piccola parte. Dice Malcolm Pagani, comincia a parlare degli anni 70, e tra l'altro lo spunto è un libro che Ferzan Özpetek ha appena pubblicato, Sei la mia vita, per Mondadori. Gli anni 70, dice Özpetek, sono stati meravigliosi. Se non fosse arrivato l'AIDS saremmo stati tutti bisessuali. Per incontrare qualcuno bastava essere curiosi e avere il coraggio di guardarsi negli occhi. Non c'erano internet e i telefonini, non esistevano i locali gay, c'erano le piazze, la cena e la voglia di conoscersi. Oggi l'attività vista, chiede l'intervistatore, si respira una certa generalizzata estraneità e mi dispiace. È un rammarico simile a quello che provo quando incontro qualche mio collega trasformato dal successo darsi un tono. Chi cambia atteggiamento non ha capito che è tutto di passaggio, tutto transitorio, tutto passeggero. Ma veniamo ai supplementi culturali veri e propri. Cominciamo naturalmente dalla domenica del Sole 24 Ore, anche se poi ne parlerete diffusamente come ogni domenica appunto in Si può fare. E allora leggiamo il breviario di Gianfranco Ravasi, che oggi si intitola Nati per amare, prende spunto da una citazione di un autore islandese. L'uomo è nato per amare, ecco quanto è semplice il fondamento dell'esistenza. Per questo il cuore batte, questa strana bussola, grazie a lui ci orientiamo tra le nebbie più fitte, a causa sua ci smarriamo e moriamo in pieno sole. E scrive Ravasi, è vero, l'amore è la bussola della vita, molto più di quanto lo sia la ragione, e come tutti gli strumenti umani può guastarsi e farci perdere la strada dell'esistenza. È ciò che intuisce il ragazzo protagonista del romanzo Il cuore dell'uomo, opera di una delle voci più alte dell'attuale panorama letterario nordico, l'islandese John Kalman Stefansson. Attraverso l'amicizia egli scoprirà la profonda e ultima ragione di vita: siamo nati per amare. Questa vocazione però non si attua come in una passeggiata, perché comprende un itinerario affascinante ma tormentato, sospeso spesso su abissi tenebrosi. Eppure, se la bussola dell'amore funziona bene, riusciremo persino a varcare l'ultima voragine, quella della morte, e come dice quel ragazzo, non ci spegneremo, forse semplicemente ci trasformeremo in musica. Ma il titolo di apertura in realtà è dedicato a un articolo di Salvatore Settis sul bronzo di Riace, su questa nuova ipotesi che il bronzo A sia forse opera di Mirone, che ritrae il guerriero Eretteo, e forse proviene, come il bronzo B, dall'acropoli greca. E poi la rubrica del nostro direttore, nostro di Radio 24 e del Sole 24 Ore, dedicata alla guerra, a due lettere sulla guerra, prende spunto da una lettera che gli è arrivata da un lettore e torna appunto sul tema della riflessione su quanto la guerra sia inutile, ma quanto sia anche importante poi la ricostruzione e poi soprattutto le lezioni della storia, quindi la medicina di Churchill e Mann e gli egoismi di oggi. Gli altri supplementi. La lettura del Corriere della Sera ha una bellissima intervista di Alessandra Iadicicco a Peter Handke, uno dei più importanti esponenti della letteratura tedesca di oggi. Vivo nel bosco, ascolto gli alberi che sussurrano. Lo spunto è che Peter Handke sarà a Bologna giovedì prossimo per ricevere un premio per il suo ultimo libro e questa intervista viene anche sintetizzata così. Scrivere mi spaventa, rifiuto la politica, sono un profugo del mio tempo. Anche qui due pagine di una bellissima intervista. E poi anche questo molto divertente, un articolo che si intitola Tecnoromanzi, immaginare o riscrivere i classici, che cosa succede se nella trama di testi dei secoli scorsi irrompono oggetti e pratiche della contemporaneità digitale. Quindi un po' un esercizio così, un esercizio intellettuale per anche un divertissement. La lettura ha chiesto a quattro scrittori di oggi di divertirsi a mettere mano a quattro opere famose per vedere come vanno a finire. Sono venuti fuori un racconto, una riflessione critica, una sorta di sequel e un vero blog. Vi segnalo anche un lungo articolo su Ennio Morricone, perché il 10 giugno debutta il nuovo brano di questo grandissimo compositore contemporaneo, che svela alla lettura un segreto nascosto nella partitura. Vi dicevo, l'articolo di Francesco Merlo sulla Repubblica lo trovate nelle pagine cult della Repubblica appunto la domenica. Scene da un matrimonio, Francesco Merlo è andato a trovare queste due donne che si sono sposate, Alessia e Chiara si sono sposate, anzi no, registrate, perché sapete che in Italia non si può ancora, c'era anche il loro bebè, siamo andati a trovarle a casa per tentare di capire che diavolo di famiglia è questa. E poi una bellissima secondo me intervista anche qui a Michael Caine, che è uno dei due immensi protagonisti dell'ultimo film di Paolo Sorrentino, Youth, che era in concorso a Cannes. Parliamo di Michael Caine, l'altro è Harvey Keitel, La mia grande vecchiezza. L'intervista è stata rilasciata a Natalia Aspesi. È raro che a un attore della mia età si offra un ruolo da protagonista. Sorrentino ha fatto di più, mi ha detto, senza di lei Youth io non lo faccio. E quindi tante le risposte che Michael Caine dà sui premi che non sono arrivati, sugli anni che passano, sui film e sui grandi amori. Un incontro poi di Giuseppe Videtti invece con una grandissima cantante jazz Dee Bridgewater, che racconta insomma anche lei un po' tutta la sua vita. Quando avevo 7 anni riunì la mia famiglia e dissi solennemente: voglio fare la cantante jazz, voglio andarmene a Parigi e voglio diventare una star. Oggi che ne ha compiuti 65 anni, ha duettato con i più grandi, ha vinto 3 Grammy, ha avuto 3 mariti, ha un nuovo bellissimo disco in uscita, può dirsi soddisfatta. Dal supplemento Macro del Messaggero, un articolo divertente sulle donne alfa, cioè donne considerate, poi chi lo sa come sono veramente nel privato, comunque considerate donne molto forti, 40 anni delle donne alfa, in particolare di Angelina Jolie, che appunto li ha compiuti settimana scorsa e è stata celebrata un po' su tutti i giornali, ma ci sono anche Charlize Theron, Eva Longoria, Kate Winslet, Mila Jovovich, Drew Barrymore, insomma splendide quarantenni. L'ultima segnalazione, Alias della Domenica, il supplemento del Manifesto, la copertina è dedicata a un libro di Anthony Doerr che è stato appena pubblicato da Rizzoli e che viene così definito un romanzo di guerra che racconta appunto la Seconda Guerra Mondiale dal punto di vista romanzato, ma che è sempre un buon modo forse per riportarci indietro nel tempo. Era l'ultima segnalazione che riesco a farvi, grazie a Paolo Corleoni in regia, una buona domenica elettorale a tutti.